to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, se è per questo, mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta alla trasmissione di Radio 24 che vi fa conoscere un pezzetto d'Italia vista con gli occhi di chi non è nato in Italia o vi è nato ma ha le sue radici altrove. Ogni sabato sera infatti invitiamo a cena un ospite per parlare di identità, di migrazione, talvolta anche di cucina di tavola attraverso le quali parliamo di identità. In questa puntata il nostro tema rimane quello, ma l'ospite è una scrittrice italiana. A indovina chi viene a cena a Radio 24 questa sera ho il piacere di avere Melania Mazzucco, benvenuta. Buonasera. Grazie Melania per essere con noi, scrittrice i cui romanzi sono tradotti in 27 paesi, molti di voi la conosceranno, ed ha portato da poco in libreria il libro Io sono con te, storia di Brigitte, e Einaudi editore. Ed è proprio di Brigitte che noi vogliamo parlare, Melania, no? Perché il suo sguardo straniero e l'incontro, in realtà, perché questa è la storia di un incontro fra due donne, è il punto di vista che interessa anche a noi, alla nostra trasmissione. Melania Mazzucco, come mai ha deciso di raccontare questa storia, che è la storia, lo diciamo subito, di una donna di origini congolesi che arriva in Italia, che scappa dal suo paese e che vive quella condizione in cui vivono moltissimi uomini e donne in questo periodo, in questi anni in Italia, di essere stranieri nel nostro paese? Come mai ha deciso di scrivere questa storia, che è un romanzo ma in realtà non è un romanzo, è un romanzo dal vero, lei lo definiva, no? Sì, perché è una storia vera, infatti anche nel titolo abbiamo deciso di chiamarlo Storia di Brigitte. Io ho pensato di raccontare la storia di una donna, una tra le tante migliaia di rifugiati che sono arrivati in Italia negli ultimi anni, in particolare lei è arrivata nel 2013, proprio per cercare di estrarre dal numero, dalla massa della quale in questi anni si è sempre soltanto parlato, no? Sono arrivati 170.000 persone, sono sbarcati in Sicilia 1.000 profughi, 1.000 migranti, eccetera. È come se noi non riuscissimo più a vedere l'umanità delle persone, a capire che ciascuno di loro porta una storia, un lutto, una speranza, un sogno. E ho cercato di scegliere tra tante storie quella di una donna, perché si parla poco delle donne che abbandonano tutto, che perdono tutto. E ho cercato una storia che stesse accadendo, cioè non una storia conclusa, una storia al tempo presente. E ho cercato di vivere con Brigitte l'esperienza della memoria, quindi di ricordare la sua storia in Africa e poi l'esperienza del suo viaggio italiano, del suo cammino non facile verso una nuova vita. Yes, I understand every line. life must be end on. As we sit alone, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Quindi nel magma di queste migliaia di persone che, come lei ha detto, ogni giorno arrivano, sbarcano, talvolta purtroppo muoiono, mettiamo a fuoco Brigitte. E la mettiamo a fuoco in questo romanzo dal vero, mentre arriva la stazione Termini, un giorno di fine gennaio, ha addosso i suoi vestiti leggeri, ha freddo, ha fame, non sa neppure bene dove si trova, è fuggita precipitosamente dal Congo. E alla stazione di Roma diventa questa stazione, queste freddi panchine, diventa un dormitorio, diventa il posto dove vive, la spazzatura diventa la sua cena. È una storia di disperazione, ma Brigitte non arriva da una storia di povertà in realtà. No, questo infatti è abbastanza, spero che sorprenda abbastanza, perché siamo sempre abituati a immaginare persone esclusivamente diseredate, no? Che arrivano sulle nostre coste quasi senza un passato e senza niente da perdere. In realtà spesso dietro ogni migrante c'è un'esistenza precedente, che non è necessariamente, a volte è una storia di povertà, però a volte è anche una storia di oppressione, di persecuzione politica, di persecuzione per motivi religiosi, razziali, anche di genere. Ecco, Brigitte è una donna nella quale qualsiasi italiana si potrebbe riconoscere, nel senso che lei è una donna che ha studiato, si è laureata, è diventata con molta fatica, è riuscita a diventare ciò che voleva essere, quindi una donna che lavora, un'infermiera, e alla fine era riuscita anche ad aprire delle cliniche e a diventare quasi, oggi diremmo, direttore sanitario, insomma. Aveva una vita con una casa, dei bambini, una famiglia, e quando però arriva fra di noi, letteralmente precipita alla stazione Termini, abbandonata dal passer, insomma, dalla persona che l'ha fatta entrare in Italia, e diventa nessuno, cioè diventa un fantasma che non ha niente, neanche vestiti quasi, perché arriva a Roma appunto a gennaio, alla fine di gennaio fa freddo, e lei ha i vestiti con cui è partita dal Congo, quindi un vestitino di cotone. Non sa bene dove si trova, non capisce la lingua, nessuno le crede e tutti pensano che semplicemente sia una mendicante pazza, sperduta. E lei veramente è una naufraga in mezzo a noi. A me ha colpito molto proprio l'inizio della sua storia, perché come tutti i romani, ma credo come chiunque viva in qualunque città o anche piccola città italiana, sa che le stazioni sono luoghi di transito per noi, ma luogo di, in realtà, di residenza per tantissime disperazioni, no? E passiamo davanti a Brigitte e a quelle come lei senza vederle. Brigitte è stata 9 giorni alla stazione senza che nessuno effettivamente si accorgesse di lei e le desse un aiuto. E come ha fatto lei ad accorgersi di Brigitte? Nel senso, fra questo magma di persone che appunto ormai non hanno più un'identità per noi, sono numeri per il pubblico, perché proprio lei? Io ho trovato Brigitte più di un anno dopo il suo arrivo in Italia. Brigitte alla stazione Termini è stata salvata da un uomo vestito di nero, un uomo di colore vestito di nero, che le si è avvicinato, la prima persona che le ha rivolto la parola. Qualche bianco le aveva offerto da mangiare nei giorni precedenti, ma senza mai guardarla negli occhi, perché quando guardi negli occhi qualcuno poi in qualche modo entri veramente in relazione con lui, no? E non puoi andartene. Questo mi ha colpito nei racconti che mi aveva fatto Brigitte in seguito. Io, quest'uomo le ha detto che c'era un posto a Roma dove lei poteva andare a chiedere aiuto. Questo posto era il Centro Astalli, che fa parte del servizio dei gesuiti per i rifugiati, che si occupa appunto di assistenza a coloro che richiedono asilo e protezione internazionale. Hanno una mensa nel centro storico di Roma, dove possono rifocillare, però anche offrire assistenza legale appunto a coloro che possono avere diritto a chiedere aiuto. E Brigitte viene accompagnata da quest'uomo, che poi è un frate in realtà, ma non è vestito da frate, fino alla porta del centro Astalli, e da lì incomincia, diciamo, un percorso di assistenza. Effettivamente Brigitte troverà delle persone che l'aiuteranno, trova una giovane donna avvocato, Francesca Napoli, che si prende cura del suo dossier, quindi l'aiuta a presentare domanda di asilo, trova un posto dove mangiare tutti i giorni, lei non ha mangiato praticamente per settimane, e alla fine troverà anche una casa e viene mandata in una casa di accoglienza. e soprattutto trova delle persone, trova l'assistenza sanitaria, trova Samifo, che è il centro per la salute dei migranti forzati, uno psicologo, una psicologa, uno psichiatra che la possono aiutare a recuperare la sua identità. Io l'ho incontrata qualche tempo dopo, appunto al centro Astalli, quando ho pensato insieme al centro Astalli stesso di raccontare una storia, cioè di riuscire a trasformare queste vite di cui loro si occupano tutti i giorni e noi invece di cui riceviamo soltanto qualche testimonianza drammatica spesso attraverso i media, di fare un viaggio completamente diverso, no? Accompagnare una persona a vivere con lei e cercare di raccontare la sua storia anche attraverso i suoi occhi. E quindi l'ho incontrata proprio nei locali del centro Astalli e da allora è stato un lungo viaggio poi verso la scrittura del libro. As I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you gave. This more than me, and I come cleaner. Una piccola pausa e torniamo a parlare con Melania Mazzucco di questa storia fra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Le svegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datemi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! That's the story of... That's the glory of love. As long as there's the two of us, we've got the Siamo questa sera con Melania Mazzucco, scrittrice di molti libri, romanzi, che questa volta è in libreria con la storia vera di Brigitte. Io sono con te è il libro pubblicato per Einaudi, in cui viene raccontato molto anche della vita in Congo, a Matadi, di Brigitte, che è stata costretta a lasciare il Congo, non è stata una scelta. No, Brigitte infatti ha ottenuto dopo circa un anno che era in Italia la protezione internazionale, è una rifugiata a tutti gli effetti perché è stata vittima di persecuzione in quanto una sera mentre lei stava lavorando nella sua clinica si presentò un colonnello e le chiese di sopprimere sostanzialmente dei manifestanti che lei stava curando e che erano rimasti feriti dopo degli scontri, erano dei manifestanti antigovernativi. Brigitte ovviamente si rifiuta di uccidere dei pazienti, ne sostiene di essere cristiana, ma soprattutto di aver prestato il giuramento di Ippocrate, quindi di non poter nuocere in nessun modo a coloro che sono affidati a lei, e pagherà questo gesto con la vita praticamente, perché la notte stessa vengono a prelevarla in casa, i suoi bambini stanno dormendo, non si accorgono di nulla, viene rapita. Il fratello che cerca di difenderla viene ucciso e Brigitte finisce in prigione, in una prigione che non sa neppure dove si trovi, viene bendata, viene picchiata, inizia per lei un vero inferno, sono quasi di più di 2 mesi segregata nella foresta tropicale, violentata, torturata e soprattutto le viene detto il giorno della sua condanna a morte, in cui verrà eseguita la sua condanna a morte. Quindi Brigitte letteralmente muore in questa prigione, però invece poi riuscirà a fuggire. È stato molto difficile ricostruire questa parte della sua storia, ovviamente, perché era difficile ricordarla per lei e per me difficile incredibilmente scriverlo. Quando abbiamo cominciato a pensare di scrivere questa storia, naturalmente all'inizio ci siamo incontrate ed eravamo due strane, nel senso che Brigitte era giustamente molto diffidente. Inoltre c'è qualcosa che ha stupito molto chi ha letto il libro, ma Brigitte aveva timore delle donne bianche e non si fidava assolutamente di una donna bianca, e questo l'aveva già scoperto prima di me la sua psicologa e soprattutto la sua giovane avvocato. Ma naturalmente non abbiamo cominciato la ricostruzione di questa storia dalle scene più tragiche, più scioccanti e traumatiche dell'esperienza in Congo, bensì proprio dalla sua storia italiana. Quindi abbiamo ricominciato da Termini, dai giorni di vagabondaggio, abbiamo ricominciato dalla stazione, dalla mattonella, di fronte al McDonald's sulla quale Brigitte ha dormito per tante notti, un luogo all'aperto, all'addiaccio, bisogna immaginare appunto gennaio, all'addiaccio, in tutto questo luogo estraneo, popolato di bianchi che parlano una lingua che lei non comprende. L'unica cosa che le è familiare, questo potrebbe colpirci, no? È l'insegna, la M del McDonald's, perché quella c'è anche in Africa. E Brigitte sceglie di vivere lì davanti, no? L'unico posto dove si sente al sicuro. Abbiamo ricominciato da lì, da questa M che lampeggiava nel buio della notte di Roma, poi dalla panchina di Piazza Venezia dove ha trovato rifugio nei giorni successivi, e dalle panchine di Piazza Vittorio e infine piano piano dal centro dove è stata curata, dalla casa, da tutto il resto. E poi piano piano siamo arrivati a parlare anche della fuga dall'Africa, del viaggio sotto falso nome e di tutto il resto. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, just breathe. Da dove viene il titolo Io sono con te? Che, se non sbaglio, Isaia viene citato all'inizio, ma perché questo titolo? Il titolo in realtà è come se l'avesse scelto Brigitte, perché questa frase "tu non temere perché io sono con te" è un versetto di Isaia, appunto, che Brigitte sente risuonare dentro di sé nella una delle notti più difficili dei suoi primi tempi italiani. Brigitte sta dormendo a Termini, dove peraltro una donna sola, smarrita, traumatizzata, eccetera, viene anche aggredita comunque dagli altri disperati della stazione, perché non c'è solidarietà, almeno all'inizio, no? Cioè, lei a un certo punto ha qualcosa che loro vogliono e quindi le rubano perfino quel pochissimo che ha. È stata al centro a stalli, le hanno detto che Francesca Napoli potrebbe essere il suo avvocato, ma Brigitte appunto non si fida di una donna bianca e soprattutto di una donna giovane, che pensa non possa comprendere tutte le sofferenze tremende che lei ha vissuto, e quindi decide di non tornare in questo posto. Ma mentre è lì, che nel dormiveglia di questa notte, sente la voce di Isaia, che dice, cioè di Dio, insomma, che dice a Isaia: tu non temere perché io sono con te. E questo le fa pensare che allora invece forse deve tornare lì e farsi aiutare. E ho capito che questo era il nostro titolo, perché in effetti era un po' il senso del libro stesso. E io penso che valga anche per chi legge questa storia e si sente interpellato come persona, insomma, con l'idea che noi siamo qui e qualcosa possiamo fare, non siamo lontani, cioè questa storia ci riguarda, ecco. Per me era importante soprattutto questo, che la storia di Brigitte fosse anche la nostra, quindi è anche la mia e di coloro che lo leggono. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. 'Cause I come clean. Io credo molto nel romanzo, ne ho scritti parecchi e credo che sia il mio modo di raccontare il mondo e sicuramente la forma romanzo, però ho anche pensato che in un caso del genere, scegliendo una storia come quella di Brigitte, non si potesse farne un romanzo, limitarci a farne un romanzo. Qua c'è una verità che deve emergere come tale, con la dignità della letteratura però. In casi così bisogna mettersi in gioco e quindi essere presenti dentro questa storia, così come io sono dentro la storia di Brigitte, con le mie fragilità e le mie difficoltà e la mia verità. Anche i figli di Brigitte, che vengono citati da lei alla fine, sì. Dedicato a, sì, a questi ragazzi. Ho dedicato proprio il libro ai bambini di Brigitte. Brigitte ha quattro figli, i due ragazzi sono riusciti ad arrivare in Italia lo scorso anno, sono qui da un anno e due mesi, ma le bambine sono ancora in Africa. Io ci penso tutti i giorni, penso anche chi legge il libro, ci penso tutti i giorni, è una famiglia lacerata, peraltro i bambini per anni non hanno saputo se la mamma era viva o morta e l'hanno pianta per morta, tant'è che la ricerca dei bambini costituisce una delle sottostorie del libro, perché lei stessa poi non sa cosa è accaduto ai suoi bambini. E io ho pensato di scrivere questo libro anche per loro, perché un giorno forse la madre non racconterà tutto quello che ha vissuto, ma loro potranno saperlo e sapere con quanta forza questa donna è riuscita a riemergere veramente dall'oscurità, del tunnel più spaventoso in cui una persona possa cadere, quindi essere anche orgogliosi di lei, anche se chiaramente quando un bambino viene precipitato da un mondo all'altro si ricorda una donna che lavorava, che aveva una casa, no? Che aveva una vita e la trova qui invece a vivere dell'assistenza pubblica, senza un lavoro, senza una casa, senza un lavoro, senza nulla di ciò che aveva, no? Cioè, c'è anche un momento difficile per questi bambini, di riconoscersi proprio in lei, no? Ecco, questo libro spero che gli possa far capire quello che la madre ha dovuto affrontare per riconquistarli. C'è un passo del suo libro verso la fine in cui dice: preferisco non immaginare il primo Natale romano di Brigitte. Un mese dopo, sì. Krishna mi dice che è stato il 25 dicembre più brutto della sua vita. Krishna è il bambino, no? Sì. Lui voleva mangiare i fagioli e il baccalà nelle foglie di manioca, cotti nell'olio di palma. Al mercato di Piazza Vittorio si trovano le foglie di manioca. Le importa dalla Francia una signora africana, ma Brigitte non aveva i 6 euro per comprarle. E lei parla di un ricongiungimento in cui non c'è gioia. E questo torna spesso in realtà nelle donne che riescono a portare i figli in Italia, magari moldave, ucraine, filippine, e a un certo punto, dopo grandi sacrifici, dopo grandi dolore, riescono magari a ricongiungersi con i figli in Italia, ma questi figli non hanno qui la stessa vita dei coetanei e c'è molto dolore in questo per queste madri che si sentono vittoriose ma sconfitte. Sì, questa è una delle cose che mi ha sempre turbato di più, proprio del fenomeno migratorio in generale, e probabilmente anche perché quando scrivevo Vita, che era la storia degli emigranti italiani in America, mi sono resa conto che anche allora c'erano delle lacerazioni familiari in realtà mai, che non si possono mai ricomporre, no? Perché c'erano famiglie spezzate a metà, in cui una parte della famiglia era in America e nel giro di una decina d'anni viveva in America e anche un po' all'americana, e gli altri rimanevano qua a vivere come prima. Poi a un certo punto uno dei bambini veniva chiamato magari, no? E partiva e lasciava un mondo per essere paracadutato in un altro senza averlo chiesto. Nonostante la miseria che si lasciava alle spalle, i primi 20 anni americani di questi bambini erano molto difficili. E adesso la situazione per certi versi si ripropone, perché ci sono famiglie divise, soprattutto le donne che vengono a lavorare come badanti in Italia sono tantissime e crescono i loro figli, si fanno dei sacrifici pazzeschi per far studiare i ragazzi nei paesi d'origine col sogno poi di ricongiungersi, ma spesso il ritorno è difficile sia per le donne quando tornano indietro dopo aver vissuto magari 20 anni in Italia abituandosi a uno stile di vita che non riescono più a riambientarsi, insomma, nel mondo che hanno lasciato, però anche quando invece il viaggio è al contrario e sono i ragazzi a venire qua. E mi sono resa conto che il ricongiungimento di Brigitte con i ragazzi è bellissimo naturalmente, però è anche molto difficile perché i bambini avevano una vita e non ce l'hanno più, e qui Brigitte ha difficoltà a offrire loro qualcosa. I come cleaner, Quanto questa storia l'ha cambiata, questo incontro, questo libro? Beh, io scrivo tutti i libri per cambiare, no? Nel senso che voglio capire delle cose e spesso la scrittura mi aiuta a comprendere i miei limiti, a cercare di superarli. In questo caso il libro è nato proprio come un desiderio di trasformare un pensiero in un'azione. E il mio pensiero era l'insofferenza per il modo in cui parliamo dei grandi cambiamenti degli ultimi 20 anni, soltanto con la paura e appunto con l'idea della chiusura. A me piace immaginare invece il futuro mi piace di più, diceva Vita nel libro che citavo prima, anche a me. Mi piace pensare che in quel futuro ci voglio vivere e cercare di capire come potrà essere. Scrivere questa storia accompagnando una persona che sarà italiana e i cui figli sono italiani adesso, no? Mi ha permesso di capire tante cose di noi, anche di loro però, perché naturalmente il libro è scritto con due prospettive, cioè la mia ma anche quella di Brigitte, no? Il mio lavoro di scrittrice, la parte più stimolante è stata proprio quella, cercare di vedere me stessa e quindi noi attraverso i suoi occhi. Con Io sono con te, storia di Brigitte Einaudi, editore Melania Mazzucco, grazie veramente per essere stata con noi, per averci raccontato questa storia. Grazie a voi, buonasera a tutti. La puntata termina qui sulle note della canzone che ha vinto X Factor 2016 della band Soul System, la band nata in Italia da genitori stranieri. I ragazzi sono di Verona, ma sono figli della prima ondata di emigrazione africana degli anni 80. Alcuni di loro non hanno ancora ottenuto la cittadinanza. Il fatto che abbiano vinto, che abbiano così successo, è sicuramente un bel segnale per il nostro paese e per le persone di origini straniere nel nostro paese. Li avremo ospiti tra qualche settimana a Indovina che viene a cena. Hanno accettato e noi siamo felicissimi di averli. Intanto io vi do appuntamento per sabato prossimo, vigilia di Natale, e quindi parleremo dei menù degli chef in Italia di origini straniere, quindi la tradizione natalizia rivisitata in salsa straniera. A sabato prossimo, buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Sticks so magical, like a candy bar. She wanna get jiggy with it, get jiggy with it. You've got to give a little. That's the glory.